Capitolo 2. Malinalli si era alzata prima del solito. Non aveva chiuso occhio per tutta la notte. Aveva paura. Nella giornata che stava per cominciare per la terza volta in vita sua, avrebbe dovuto affrontare un cambiamento radicale. Quando il sole si fosse levato, sarebbe stata regalata di nuovo. Non riusciva a capire. Doveva esserci qualcosa di sbagliato in lei se tutti la trattavano come un ingombro e rinunciavano alla sua presenza con tanta facilità. Si sforzava di essere sempre la migliore, di non dare problemi, di lavorare duramente, eppure, per qualche ragione, non le permettevano di mettere radici. Malinalli macinava il mais nella penombra alla luce della luna. Fin dal giorno prima, quando il canto degli uccelli era emigrato, aveva provato una stretta al cuore. Nel più assoluto silenzio aveva visto gli uccelli in fuga portare via con sé parte del clima, qualche ritaglio di luce e un frammento di tempo, del suo tempo. Mai più avrebbe guardato l'imbrunire da quell'angolo di mondo. La notte che si avvicinava era venata di incertezza. Come avrebbe vissuto accanto ai nuovi padroni? Che ne sarebbe stato del suo campo di mais? Chi l'avrebbe seminato di nuovo? Chi avrebbe raccolto le pannocchie al posto suo? Sarebbe morto senza di lei, senza le sue cure? Le scappò una lacrima e questo la fece pensare a Chinua Achcoatl. La donna serpente, la dea che chiamano anche Cuilatli, madre del genere umano, che di notte percorre i canali del grande Tenochtitlan, gemendo e piangendo per la sorte dei suoi figli. Aveva sentito dire che chi udiva il suo pianto non riusciva più a dormire, che i suoi gemiti di dolore e di preoccupazione per il futuro dei figli colmava il cuore di terrore. Chinua Achcoatl gridava a gran voce che pericolo e distruzione erano in agguato. Anche Malinalli, come Chinua Achcoatl, piangeva di impotenza perché non avrebbe potuto proteggere la sua semina. Ogni pannocchia per lei era un inno alla vita, alla fertilità, agli dèi. Senza le sue cure, che ne sarebbe stato del suo campicello? Non ne avrebbe saputo più niente. Ancora una volta doveva avviarsi su un sentiero che aveva già percorso, lasciando per sempre la terra a cui era affezionata. E di nuovo sarebbe andata a vivere in un posto sconosciuto, dove ancora una volta sarebbe stata l'ultima arrivata, quella venuta da fuori, quella che non fa parte del gruppo. Sapeva per esperienza che avrebbe dovuto guadagnarsi in fretta la simpatia dei nuovi padroni se non voleva essere rifiutata e nel peggiore dei casi castigata. Poi, in una seconda fase, avrebbe dovuto affinare i sensi, vedere e ascoltare il più attentamente possibile, per assimilare in fretta le nuove abitudini e imparare le parole che il gruppo utilizzava più di frequente. Solo allora avrebbe potuto farsi apprezzare secondo i suoi meriti. Ogni volta che chiudeva gli occhi e cercava di riposare un po', una capriola nello stomaco la svegliava bruscamente. Con gli occhi sbarrati ripensò alla nonna e nella sua mente si accesero immagini amate e dolorose a un tempo. Era stato proprio la morte della nonna a portare nella sua vita il primo grosso cambiamento. Era stato l'affetto più caldo e protettivo che Malinalli avesse sperimentato durante l'infanzia. Quello della nonna, che già prima della sua nascita l'aveva attesa per tanti anni. Pare che in quel tempo fosse stata più volte in punto di morte, ma sempre si era ripresa dicendo che non poteva andarsene senza conoscere colei che avrebbe ereditato il suo cuore e la sua saggezza. Senza la nonna, l'infanzia di Malinalli non avrebbe conosciuto nemmeno un istante di allegria. Era grazie a lei se anche in quel momento difficile si sentiva ben equipaggiata per affrontare cambiamenti anche drammatici. Eppure aveva paura. Per calmarsi, cercò nel firmamento la stella del mattino, il suo amato Quetzalcoatl, sempre presente, il suo grande protettore. Fin dalla prima volta in cui era stata regalata, ancora bambina, Malinalli aveva imparato a vincere la paura dell'ignoto appoggiandosi a qualcosa di familiare, come la luminosa stella che vedeva sorgere davanti alla finestra della sua stanza e danzare da una parte o dall'altra del cielo a seconda delle stagioni. A volte stava sopra l'albero del giardino, a volte la vedeva brillare sulle montagne o un po' spostata da una parte, ma sempre ammiccante, allegra, vivace. Solo quella stella non l'abbandonava mai. Dal suo posto fisso nel firmamento l'aveva vista nascere e sicuramente l'avrebbe vista morire. Per Malinalli la stella del mattino era collegata al concetto di eternità. I vecchi dicevano che lo spirito degli esseri umani, di tutte le cose viventi e anche quello degli dei vive per sempre e che è possibile andare e venire da questo nostro tempo a un luogo fuori del tempo senza bisogno di morire, semplicemente cambiando forma. Quell'idea le dava speranza. Significava che nel cosmo infinito che la circondava, suo padre e sua nonna erano sempre presenti, né più né meno degli astri, e che un giorno sarebbero tornati. Come il suo signore Quetzalcoatl. L'unica differenza era che il ritorno di suo padre e di sua nonna avrebbero rallegrato solo lei, mentre il ritorno di Quetzalcoatl avrebbe cambiato radicalmente la sorte di tutti i popoli soggiogati dai Mexica. Ma l'Inalli non apprezzava affatto il loro metodo di governo, non le piaceva quel sistema che si arrogava il diritto di giudicare del valore di una donna, dei desideri degli dèi e perfino della quantità di sangue che bisognava versare affinché il mondo potesse andare avanti. Pensava che ci volesse un cambiamento sociale, politico e spirituale. Sapeva che l'epoca più gloriosa dei suoi antenati era coincisa con il tempo del suo signore, Quetzalcoatl, e aspettava con ansia il suo ritorno. Moltissime volte aveva riflettuto sul fatto che se il suo signore non se ne fosse andato, il popolo non sarebbe rimasto in balia dei Mexica, suo padre non sarebbe morto, lei non sarebbe stata regalata e a nessuno sarebbe saltato in mente di sacrificare gli esseri umani. L'idea che i sacrifici umani fossero necessari le sembrava un'aberrazione ingiusta e inutile. Ma l'Inalli desiderava così ardentemente il ritorno di Quetzalcoatl, nemico di ogni sacrificio umano, da essere pronta a riconoscere in ogni nuovo nato una reincarnazione del Dio. Lei credeva fermamente che il corpo degli uomini fosse veicolo degli dèi. Era uno dei grandi insegnamenti che la nonna le aveva trasmesso mentre giocava con lei e le insegnava a modellare il fango. La prima cosa che aveva imparato a fare era un bicchierino per l'acqua. Allora aveva solo 4 anni, ma era una bambina sveglia e aveva domandato alla nonna: a chi è venuto in mente per primo che dovessero esserci dei recipienti per contenere l'acqua? All'acqua stessa. E perché? Per poter riposare nella sua superficie e raccontarci i segreti dell'universo. L'acqua ci parla da ogni pozzanghera, da ogni lago, da ogni ruscello. Ha molti modi per vestirsi elegante e si presenta sempre nuova ai nostri occhi. La pietà del Dio che abita nell'acqua ha inventato i recipienti da cui essa ci parla mentre alleva la nostra sete. Tutti i recipienti che contengono l'acqua ci ricordano che Dio è acqua ed è eterno. Ah, aveva esclamato la bimba stupita. Allora l'acqua è Dio? Sì, e anche il fuoco, il vento, la terra. La terra è nostra madre, colei che ci nutre e che quando noi riposiamo distesi su di lei, ci ricorda da dove veniamo. In sogno ci dice che il nostro corpo è terra, che i nostri occhi sono terra e che i nostri pensieri saranno terra nel vento. E il fuoco cosa dice? Tutto e niente. Il fuoco produce pensieri luminosi e fa sì che cuore e mente si fondano in una cosa sola. Il fuoco trasforma, purifica e illumina ogni nostro pensiero. E il vento? Anche il vento è eterno e non finisce mai. Quando entra nel nostro corpo, noi nasciamo e quando ne esce, moriamo. Per questo dobbiamo essere amici del vento. E poi? Quando non sai più cosa domandare. Faresti meglio a tacere. Non bisogna sprecare la saliva. Anche quella è un'acqua sacra e la produce il cuore. Non dobbiamo sprecarla in parole inutili, perché così facendo buttiamo via l'acqua degli dèi. Ascolta, adesso ti dirò una cosa che non devi dimenticare mai. Se non sanno inumidire e far fiorire negli altri il ricordo di Dio, le parole non servono a niente. Malinalli sorrise ripensando alla nonna. Forse anche lei sarebbe stata d'accordo che gli stranieri venivano da parte degli dèi. D'altronde non poteva essere altrimenti. Le voci che correvano di casa in casa, di villaggio in villaggio e di regione in regione dicevano che quegli uomini bianchi e barbuti erano stati spinti figli dal vento e tutti sapevano che la presenza di Quetzalcoatl si percepisce solo quando il vento è in movimento. Di quali altri indizi avevano bisogno per capire che gli stranieri erano i suoi rappresentanti, se erano arrivati spinti dal vento? E non basta, alcuni di quegli uomini barbuti avevano sulla testa capelli biondi come pannocchie di mais Quante volte nelle cerimonie pubbliche la sua gente si era tinti i capelli di giallo per rappresentare il mais? Se i capelli degli stranieri somigliavano al Gran Turco, allora essi rappresentavano il mais che Quetzalcoatl aveva donato agli uomini perché se ne alimentassero. Pertanto, i capelli biondi che avevano in testa potevano essere interpretati come un segnale dei più propizi. Per Malinalli, il mais era l'incarnazione stessa della bontà. Era l'alimento più puro che si potesse mangiare, era la forza dello spirito. Fin tanto che gli uomini fossero stati amici del mais, pensava il cibo non sarebbe mai mancato sulla loro tavola, fin tanto che avessero riconosciuto di essere figli del mais trasformati in carne dal soffio del vento, essi avrebbero avuto coscienza di essere una sola cosa, nutriti dalla stessa sostanza. Sì, assolutamente, quegli stranieri e loro, gli indigeni, erano una cosa sola. Ad altre possibilità non voleva nemmeno pensare. Se c'era un'altra spiegazione per la venuta di quegli uomini che avevano attraversato il mare, non voleva saperla. Solo se erano venuti per restaurare l'epoca di gloria dei suoi antenati, anche lei, Malinalli, si sarebbe salvata. Altrimenti era destinata a rimanere per sempre un'umile schiava a disposizione dei suoi genitori e padroni. La fine dell'orrore doveva essere vicina. Lei voleva crederci con tutte le sue forze. Per confermare queste teorie, aveva consultato un tlachiche che leggeva il futuro nei chicchi di mais. L'uomo aveva preso un pugno di chicchi nella mano destra, poi, tenendo la bocca socchiusa, ci aveva soffiato sopra con tutta la gola aperta e li aveva gettati sulla stuoia. Osservando attentamente il modo in cui i chicchi erano caduti, l'indovino aveva risposto a tre domande di Malinalli. Quanto vivrò? Sarò libera un giorno? Quanti figli avrò? Malinalli, il mais dice che il tuo tempo non si potrà misurare, che nemmeno tu saprai quali saranno i confini della sua estensione, che non avrai età. Perché? In ogni fase che ti toccherà vivere, scoprirai un nuovo significato e lo nominerai. E quella parola sarà la via per disfare il tempo. Le tue parole nomineranno ciò che nessuno ha mai visto. La tua lingua renderà invisibile la pietra e la trasformerà in Dio. Presto non avrai più un focolare, non tesserai e non preparerai più il cibo. Dovrai camminare e guardare, guardando imparerai qualcosa su tutti i visi, su tutti i colori della pelle, su tutte le differenze, su tutti gli idiomi, su ciò che siamo, su come smetteremo di esserlo e su ciò che saremo dopo. Questa è la voce del mais. Nient'altro. Non dice niente sulla mia libertà. Quel che ha detto il mais te l'ho riferito. Non vedo nient'altro. Quella notte Malinalli non era riuscita a dormire, non sapeva come interpretare le parole dell'indovino. Solo verso l'alba si era appisolata e in sogno si era vista come una gran signora, come una donna libera e luminosa che volava sulle ali del vento. Ma all'improvviso quel sogno felice si era trasformato in un incubo. Accanto a lei la luna era trafitta da lame di luce che la ferivano e l'incendiavano tutta. Poi la luna non era più la luna, era una pioggia di lacrime che nutriva la terra inaridita, facendo sbocciare mille fiori sconosciuti. Malinalli, sorpresa, li nominava per la prima volta, ma quando si svegliò li aveva completamente dimenticati. Malinalli prese il sacchetto di tela che teneva sempre legato sotto i vestiti e nel quale conservava i chicchi di mais con cui l'indovino le aveva predetto la sorte. Era un ricordo vivente e lei lo portava sempre con sé. Per consolidare il suo destino li aveva uniti passandoci in mezzo un filo. Ogni mattina mentre pregava li faceva scorrere tra le dita uno a uno e nemmeno quel giorno avrebbe fatto eccezione. Con ardore chiese alla nonna di proteggerla, di avere cura del suo destino, ma soprattutto di liberarla dalla paura e di far sì che potesse guardare con occhi nuovi ciò che stava per accadere. Prima di riprendere il lavoro, chiuse un momento gli occhi e strinse forte i chicchi di mais. Lungo il viso le scorrevano gocce di sudore, provocate in parte dal lavoro al metate e in misura forse maggiore dall'umidità che a quell'ora del mattino cominciava a farsi sentire. Di solito l'umidità non le dava affatto fastidio, anzi, le ricordava il dio dell'acqua, sempre presente anche nell'aria. Le piaceva sentirla, odorarla, palparla, ma quella mattina l'umidità la turbava perché le sembrava carica di una paura insopportabile, di un timore che si infilava sotto le pietre, sotto i vestiti, sotto la pelle. Quella paura veniva dal palazzo di Montezuma e gettava un'ombra su tutta la valle di Anahuac fino alla sua regione. Era una paura liquida che impregnava la pelle, le ossa e il cuore, una paura nata dai presagi funesti che si erano verificati nel corso degli anni, già molto tempo prima dell'arrivo degli spagnoli. Presagi che parlavano tutti dell'imminente caduta dell'impero. Il primo era stato l'apparizione notturna di una spiga infuocata che lasciava cadere sulla terra gocce di fuoco. Il secondo presagio era stato l'incendio che, senza spiegazione alcuna, aveva distrutto il tempio di Huitzilopochtli, il dio della guerra. Nessuno aveva innescato le fiamme e nessuno era riuscito a spegnerle. Il terzo era stato un raggio mortale caduto su un tempio di paglia che faceva parte del tempio maggiore di Tenochtitlan, un colpo di sole venuto dal nulla, poiché in quel momento piovigginava. Il quarto era stato l'apparizione in cielo di un manto di scintille, che unite tre a tre formavano una lunga tunica che con la sua coda attraversava tutta la volta celeste, dal punto in cui il sole tramonta fino a quello in cui sorge. Tutti quelli che l'avevano visto avevano gridato di spavento. Con il quinto presagio, l'acqua di una delle lagune limitrofe alla valle della Nahuac si era messo a bollire e aveva bollito con tanta furia e si era sollevata così in alto da distruggere le case. Il sesto presagio era stata l'apparizione di Cihuacóatl, la donna che tutte le notti piangeva e diceva: «Figli miei, dove potrò condurvi? Dobbiamo scappare, andarcene lontano». Il settimo presagio era stato un uccello stranissimo che alcuni pescatori avevano trovato nella laguna e subito portato a Montezuma. Era un uccello di color cinerino, simile a una gru, con uno specchio sulla testa che rifletteva il cielo e le stelle. Ma quando Montezuma aveva guardato in quello specchio, ci aveva visto molte persone che combattevano tra loro e l'aveva considerato un presagio di sventura. L'ottavo e ultimo presagio era stata la comparsa di persone deformi, alcune con due teste, altre unite per la fronte o per la schiena, che sparivano non appena Montezuma le aveva viste. Allarmato, l'imperatore aveva mandato a chiamare maghi e sapienti. «Voglio che mi diciate se sta per arrivare una malattia, una pestilenza, una carestia, le cavallette, il terremoto, se pioverà troppo o troppo poco, ditemelo. Voglio sapere se qualcuno ci muoverà guerra. O se a causa dell'apparizione dell'uccello con lo specchio in testa ci saranno dei morti. Non me lo nascondete. E voglio sapere anche se qualcuno di voi ha sentito piangere Cihuacóatl, cosa di cui tutti parlano. Perché quando nel mondo sta per accadere qualcosa di brutto, lei è sempre la prima a saperlo, molto tempo prima che accada». Nel silenzio dell'alba, Malinalli era sicura di averli sentiti i lamenti e il pianto di Cihuacóatl. Aveva bisogno di urinare, così lasciò il metate e uscì in giardino. Si rialzò la gonna e lui, Pil, si accovacciò e spinse, ma il liquido si rifiutava di uscire dal suo corpo. Allora Malinalli capì che quella sensazione al ventre nasceva dalla paura e non da un bisogno fisiologico. La nonna le mancava moltissimo. E ripensò al giorno in cui era stata regalata per la prima volta. Aveva solo 5 anni. L'idea di doversi separare da tutto ciò che amava la riempiva di terrore. Tremava dalla testa ai piedi. Le aveva detto che poteva prendere con sé solo lo stretto indispensabile e lei, senza pensarci 2 volte, aveva infilato in un sacco di juta l'eredità di sua nonna. Una collana e un braccialetto di giada, una collana di turchesi, qualche pil ricamato, delle figurette di creta che avevano modellato insieme e alcuni chicchi di mais del loro campicello. Sua madre l'aveva accompagnata fino al confine del villaggio. Malinalli, con il suo fagotto in spalla, si aggrappava alla sua mano quasi per fondersi con lei, come quando Quetzalcoatl si era fuso con il sole per governare il mondo. Ma lei non era una dea, il suo desiderio di fusione non si era realizzato. Sua madre si era liberata facilmente delle sue piccole dita, le aveva consegnate ai nuovi padroni e le aveva voltato le spalle. Vedendola andar via, Malinalli si era fatta la pipì addosso, perché si sentiva abbandonata da tutti, anche dai suoi dèi, e non credeva più che essi l'avrebbero accompagnata nella sua nuova vita. L'acqua che le scorreva fra le gambe era il segno che anche il dio dell'acqua le aveva ripudiata. Aveva pianto per quasi tutta la strada. Le sue lacrime avevano bagnato tutti i sentieri che percorreva, quasi a segnare il cammino che molti anni dopo avrebbe ripercorso con Cortés. La grande tristezza di quel giorno in Fausto si era un po' diradata verso l'alba, quando, stanca di piangere, aveva alzato gli occhi alle stelle riconoscendo subito la stella del mattino. Con il cuore che le ballava in petto, Malinalli aveva salutato la sua amica di sempre e l'aveva benedetta. In quel momento, pur essendo molto giovane, o forse proprio per quello, si era sentita sicura di non avere perso niente. Non c'era ragione di temere, i suoi dei erano dappertutto, non solo a casa. Anche là dove stava andando a vivere, soffiava la brezza, sbocciavano i fiori, risuonavano i canti, c'era la luna e la stella del mattino, e all'alba aveva avuto la prova che il sole spuntava anche lì. Poi, con il passare dei giorni, aveva scoperto che la nonna non era davvero morta, perché viveva nella sua mente, nel pezzetto di terra in cui aveva subito seminato il mais del suo sacchettino. Erano state loro due insieme a selezionare i chicchi migliori dell'ultimo raccolto per seminarli prima della stagione delle piogge. Ormai non poteva più farlo con la benedizione della nonna o nel suo amato campicello, eppure anche quella volta il raccolto sarebbe stato abbondante. Il mais, infatti, aveva prodotto delle pannocchie enormi e ogni volta che portava alla bocca un pezzo di tortilla, Malinalli avvertiva la presenza della nonna. La nonna era stata la sua compagna di giochi preferita, la sua più fedele alleata, la sua amica del cuore, anche se con il passare degli anni a poco era diventata quasi cieca. Curiosamente, meno ci vedeva e meno aveva bisogno di ricorrere agli occhi. Non aveva detto a nessuno che stava perdendo la vista. Si muoveva come al solito, sapeva perfettamente dove trovare ogni oggetto. Non inciampava, non chiedeva aiuto, sembrava avere in mente la mappa precisa di tutte le distanze, di tutti i sentieri, degli angoletti, degli dintorni. Quando Malinalli aveva compiuto 3 anni, la nonna le aveva regalato delle figurette e altri giocattolini d'argilla, un vestitino che lei stessa aveva ricamato quasi alla cieca, una collana di turchesi e un braccialetto di chicchi di mais. Sentendosi molto amata, la piccola era andata nel patio a giocare con i suoi regali, ma ben presto un nuvolone nero aveva coperto il cielo e un tuono fortissimo aveva interrotto la festa. Un lampo simile a una scia d'argento vivo nel cielo aveva attirato l'attenzione di Malinalli. Cosa significava? Cos'era quel brillare argentato in mezzo al grigio? Prima che la nonna potesse risponderle, era cominciata la grandine, che cadeva con un frastuono tale da coprire ogni altro suono. Si udiva solo la sua voce, tutte le altre erano zittite. Malinalli e la nonna erano corse in casa per ripararsi, poi quando la grandine era cessata, Malinalli aveva chiesto il permesso di uscire di nuovo a giocare. Pazza di felicità aveva affondato le mani in quei sassolini gelati, costruito pupazzi e cerchi di ghiaccio, finché la grandine non si era sciolta tutta. Ma le era rimasta ancora a lungo a giocare con l'acqua e il fango, sporcandosi il vestito nuovo, le mani e le ginocchia. Aveva modellato bambole e palline di creta fino a stancarsi. Scendeva la sera quando era rientrata in casa, dicendo allegramente: «Sai, nonna, di tutti i giocattoli che ho avuto in regalo, quelli che mi piacciono di più sono i giocattoli d'acqua». «Perché?» aveva domandato la nonna. «Perché possono cambiare forma». E la nonna le aveva spiegato. «Sì, piccola mia, sono i giocattoli più belli, e non solo perché cambiano forma, anche perché torneranno sempre, dato che l'acqua è eterna». Sentendosi compresa, la bambina le aveva dato un bacio. Odorava di terra bagnata ed era coperta di fango dalla testa ai piedi. Alla nonna non dispiaceva che si fosse sporcato il vestito e non l'aveva sgridata per avere rovinato in poco tempo ciò che i suoi occhi quasi ciechi avevano creato con tanta fatica. Anzi, le aveva parlato a lungo dell'allegria di ricavare il piacere dall'acqua, dalla terra e dal vento. Le aveva detto che abbandonarsi a quei piaceri era un modo di godersi la vita. Dopo il temporale era tornato il caldo, un caldo insopportabile. Nonostante fosse ormai buio, Malinalli aveva chiesto il permesso di uscire ancora a giocare e la nonna, siccome era il suo compleanno, gliel'aveva concesso e si era seduta sulla soglia di casa per ascoltarla ridere e giocare. A un certo punto però era sceso il silenzio, non si udiva più alcun suono. Allarmata, la nonna aveva cominciato a cercare quella nipote che amava più della sua stessa carne, più della vista, più delle stelle. Camminando qua e là, rinciampata nel suo corpo disteso, aveva capito che la piccola si era addormentata sul mucchietto di fango. Con grande tenerezza l'aveva accarezzata, presa in braccio e riportata in casa. E poi l'aveva tenuta in grembo, addormentata mentre guardava le stelle. Con gli occhi del corpo non poteva vederle, ma con quelli dell'anima sì. Da tempo ormai nel suo cuore aveva disegnato un intero planetario. In quel giorno speciale la casa era stata piuttosto silenziosa, solo la risata argentina di Malinalli aveva riempito gli spazi e le distanze. Lei e la nonna avevano festeggiato da soli il suo compleanno perché sua madre era via da parecchi giorni. Era andata ad assistere alla cerimonia del fuoco nuovo, che in quelle regioni si celebrava ogni 52 anni, insieme a un Tlatoani di cui era innamorata. L'avvenimento era importante, ma la madre di Malinalli era stata via più del previsto. Solo dopo mezzanotte, lungo il sentiero, si erano udite le risa e la confusione che facevano la madre di Malinalli e il suo nuovo signore. Camminavano allegri e animati perché lui, al calore del fuoco nuovo, le aveva chiesto di sposarlo e lei, contenta, aveva subito detto di sì. La madre di Malinalli aveva invitato quell'uomo a entrare e gli aveva preparato un'amaca per dormire. Ma quando stava per mettersi a letto, anche lei, la suocera, le aveva detto: «Oggi sono 3 anni da che è nata tua figlia, è il suo compleanno. Perché non eri qui con lei a metterle sul pube la conchiglia rossa? Perché allora, quando compirà 13 anni, dovrei farle anche la cerimonia della rinascita, e invece quel giorno io non sarò più con lei? Come sarebbe a dire che non sarai con lei? Che sto per regalarla? No, tu non puoi portarmela via. Quella bambina appartiene al mio cuore, al mio sentimento. Il lecce è l'immagine di mio figlio, l'hai forse dimenticato?» La madre di Malinalli le aveva risposto con voce tagliente: «Tutto si dimentica in questa vita, tutto passa, ogni avvenimento smette di essere presente, perde valore e significato e viene scordato. Adesso ho un nuovo signore e avrò altri figli. Malinalli verrà data a un'altra famiglia che si occuperà di lei, perché fa parte del fuoco vecchio che voglio dimenticare.» Ma la nonna aveva protestato: «No. Io sono qui per regalarle il cammino, per facilitarle la vita, per mostrarle che il sogno in cui viviamo può essere dolce, pieno di canti e di fiori.» E la nuora: «Non tutti sogniamo la stessa cosa. Il sogno può anche essere crudele, doloroso come il mio. Le verrà data via perché tutto si dimentica in questa vita.» Allora la nonna, in tono autoritario, aveva replicato: «Lo so, ciò che accade a tua figlia non è per te ragione di preoccupazione o di pianto. Vedo che hai dimenticato gli insegnamenti di tuo padre e di tua madre. Credi forse di essere venuta al mondo per stillare, dormire e svegliarti giocosamente con il tuo nuovo signore? Hai scordato che fu il signore del vicino e dell'insieme a darti questa bambina, affinché tu le insegnassi a governarsi nella vita? Se è così, lascia che sia a occuparmi di lei, fin tanto che avrò vita, lasciami i Malinalli.» Finalmente la madre aveva ceduto alle suppliche della vecchia e così, a partire da quel giorno, la bambina era stata amorosamente educata da lei. Grazie alle lunghe conversazioni con la nonna, già a 2 anni il linguaggio della piccola era preciso, vasto e ordinato. A 4 anni Malinalli non aveva difficoltà a esprimere dubbi e concetti anche complessi, tutto merito della nonna. Fino alla più tenera età, la vecchia le aveva insegnato a disegnare i codici mentali per esercitare il linguaggio e la memoria. «La memoria», le diceva, «è una vista interiore. E dare forma e colore alle parole. Senza immagini non c'è memoria.» Chiedeva alla bimba di disegnare su un pezzo di stoffa un codice, ossia una sequenza di immagini che narrassero un qualche avvenimento reale o immaginario. La piccola passava lunghe ore a disegnare e la sera prima di dormire la nonna le chiedeva di raccontare il suo codice. Era così che giocavano tra loro. La nonna si divertiva moltissimo a scoprire con quanta immaginazione e intelligenza la nipotina sapeva interpretare le immagini dipinte sulla tela. Malinalli non sapeva che la nonna era cieca, la vedeva comportarsi in modo assolutamente normale e la sua conversazione era affascinante come sempre. Il tono della sua voce le accarezzava l'orecchio, risvegliandole dentro una grande allegria. Malinalli era innamorata della voce e degli occhi di sua nonna. Quando la vecchia le raccontava una storia, Malinalli la guardava negli occhi con curiosità, riconoscendo in lei una bellezza che non aveva mai visto in nessun altro. Gli occhi della nonna si illuminavano mentre parlava e quando stava in silenzio perdevano vitalità, si spegnevano. Per questo le piacevano tanto. Solo per puro caso, un giorno aveva scoperto che non ci vedeva. Era sera, la nonna riposava seduta accanto alla porta di casa e Malinalli le si era avvicinata senza fare alcun rumore. Aveva un uccellino fra le mani. «Guarda, nonna, vedi come soffre?» La vecchia aveva domandato: «Chi è che soffre? Non lo vedi? L'ho qui tra le mani, è ferito. Mi piacerebbe riuscire a curarlo.» «No, non lo vedo, dove è ferito? Ha un'ala.» La donna aveva teso le mani e Malinalli ci aveva deposto dentro l'uccellino. Poi, con gran sorpresa, l'aveva vista palpare la bestiola per capire quanto fosse grave la sua ferita. Citli, come mai, pur vedendo ogni cosa, tu non ci vedi? Se i tuoi occhi non vedono i colori, non vedono i miei occhi, il mio viso e i miei codici, cosa vedono? E la nonna le aveva risposto: Io vedo ciò che sta dietro le cose. È vero, non posso vedere il tuo viso, ma so che sei bellissima. Il tuo aspetto esteriore non lo vedo, ma percepisco la tua anima. È vero, non ho mai visto i tuoi codici, li conosco solo attraverso le tue parole. Posso vedere tutto ciò in cui credo. Vedo chiaramente perché siamo qui e dove andremo quando smetteremo di giocare. Malinalli piangeva in silenzio e la nonna le aveva domandato: Perché piangi? Piango perché capisco che non hai bisogno degli occhi per vedere per essere felice, aveva risposto. E perché ti voglio tanto bene, non voglio che tu vada via. La nonna le aveva abbracciata teneramente dicendo: Io non andrò mai via da te. Ogni volta che vedrai un uccello volare, io ci sarò. Sarò nella forma degli alberi, nelle montagne, nei vulcani, nel mais, ma soprattutto ogni volta che pioverà io sarò accanto a te. Nella pioggia saremo sempre insieme. Non devi preoccuparti per me. Sono diventata cieca perché mi infastidiva che la forma delle cose mi confondesse la mente, impedendomi di cogliere la loro essenza. Sono diventata cieca per tornare alla verità. È stata una mia decisione e sono felice di vedere ciò che vedo. Ormai il sole si era levato. Quel mattino la luce era più liquida che mai e le nuvole disegnavano in cielo animali fantastici. Malinalli, accompagnata dal ricordo della nonna, interruppe il lavoro al metate e accese il fuoco per scaldare il piatto di terracotta che avrebbe trasformato l'impasto di Maus in una tortilla. Lo fece lentamente, in rispettoso silenzio. Stava accendendo il fuoco in quella casa per l'ultima volta. Per un momento si concentrò sulla forma delle fiamme, cercando di indovinarne il significato. Huehuetheotl, il dio del fuoco vecchio, le mostrò le sue forme e i suoi colori più belli. Scintille rosse e gialle si mescolarono ad altre verdi e azzurre, disegnando mappe stellari negli occhi di Malinalli e trasportandola in un luogo fuori dal tempo. Per un attimo la sua anima si colmò di pace e Malinalli ne approfittò per modellare la pasta di mais e formare un paio di tortillas che mise a cuocere sul comal. La prima la mangiò lentamente, cercando di percepire dentro di sé la presenza della nonna e del suo signore. Questa al colt. L'altra la lasciò bruciare e la macinò sul metate fino a ottenere una cenere finissima che lanciò in aria per lasciare in quel luogo una traccia del suo passaggio. Così il vento avrebbe continuato a parlare di lei, del suo passato, della sua infanzia e di sua nonna. Completata quell'intima cerimonia, Malinalli cominciò a preparare le sue cose per il viaggio. Mise in un sacco di juta le collane che aveva ereditato dalla nonna, alcuni chicchi di mais del suo ultimo raccolto e una certa quantità di grani di cacao. Erano una moneta di grande valore, che avrebbe potuto spendere in caso di bisogno. Nel farlo desiderò di valere quanto un grano di cacao. Allora sì che sarebbe stata una preziosa persona e nessuno avrebbe più osato darla via. Finito di preparare il bagaglio, Malinalli si lavò e si vestì, si pettinò con cura. Prima di partire benedisse la terra che l'aveva nutrita, l'acqua, l'aria e il fuoco e chiese agli dèi di accompagnarla, di guidarla, di illuminarla affinché potesse capire il loro ordine, la loro volontà e obbedirgli. Chiese la benedizione degli dèi affinché tutto ciò che avrebbe fatto e detto da quel momento in poi arrecasse del bene a lei, al suo popolo e all'armonia generale del cosmo. Chiese al sole di concederle il potere della voce affinché tutti potessero udirla e alla pioggia di fecondare ciò che avrebbe seminato. Poi gettò una manciata di terra su quello che ormai era il suo fuoco vecchio e si mise in cammino, con i suoi 15 anni sulle spalle, nelle viscere e la compagnia di sua nonna e di Quetzalcoatl. Quel giorno anche Cortés si era alzato all'alba, non aveva quasi dormito. Durante la notte, nei pochi momenti in cui era riuscito a prendere sonno, si era risvegliato in preda a incubi spaventosi. Il più terribile nasceva da un sogno che aveva fatto qualche anno prima, nel quale si vedeva circondato da gente sconosciuta, che lo coronava di attenzioni e di onori, trattandolo come un re. Allora quel sogno l'aveva reso felice, regalandogli la certezza che un giorno sarebbe diventato un personaggio importante. Quella notte invece il vecchio sogno si era trasformato in un incubo. Gli onori erano diventati parole di scherno, intrighi sussurranti, coltelli occhiuti che gli si conficcavano nella schiena. In sogno, Cortés aveva visto la propria morte. Ma la cosa peggiore è che il sogno era continuato anche dopo che aveva aperto gli occhi e la paura era rimasta lì, accucciata nel buio. Non gli era mai piaciuto il buio, gli intristiva l'anima. Durante le sue lunghe avventure marinaresche aveva sempre cercato in cielo la stella polare, guida dei naviganti per non sentirsi perduto. Quando il cielo nuvoloso nascondeva le stelle, navigare su quel mare nero lo riempiva d'angoscia. Non capire la lingua degli indigeni era come navigare su un mare nero. Per lui il Maya era misterioso come il lato nero della luna. Quelle parole incomprensibili lo facevano sentire esposto, vulnerabile. Nemmeno del suo traduttore, frate Jerónimo de Aguilar, poteva fidarsi fino in fondo. Non sapeva mai fino a che punto era fedele alle sue parole e quanto invece le tradiva. Il frate gli era caduto tra le mani come un dono del cielo. Anni prima, dopo essere sopravvissuto a un naufragio, era stato catturato dai Maya e durante la prigionia ne aveva appreso la lingua e i costumi. Venuto a sapere della sua esistenza, Cortés aveva pensato che era un vero colpo di fortuna e subito l'aveva fatto riscattare. Da allora Aguilar gli aveva fornito informazioni preziose sia sui Maya sia sull'impero dei Mexica, che era grande e potente. Pur dimostrandosi utilissimo come interprete tra lui e gli indigeni dello Yucatan, però Aguilar non aveva alcun talento per il negoziato e la persuasione. Se solo fosse stato un po' più abile in quelle pratiche, la prima battaglia tra spagnoli e indigeni si sarebbe potuta evitare. Cortés preferiva ricorrere al dialogo piuttosto che alle armi e si risolveva a dare battaglia solo quando tutti i tentativi della diplomazia erano falliti. L'aveva vinta lui, quella prima battaglia. A Cintla, il suo istinto per il trionfo aveva provocato la disfatta degli indigeni. In realtà erano stati i cavalli e l'artiglieria a regalargli quella prima vittoria in suolo straniero. Eppure, lungi dall'essere in uno stato d'animo festoso e incline all'ottimismo, Cortés si sentiva impotente. Fin da piccolo aveva sviluppato una grande fiducia in se stesso, che si basava sulla facilità con cui sapeva articolare le parole, intrecciarle tra loro, applicarle, utilizzarle nel modo più conveniente e convincente. Per tutta la vita, mano a mano che andava maturando, aveva verificato che non c'è arma più efficace di un buon discorso. In quel momento, però, si sentiva vulnerabile e inutile, disarmato. Come avrebbe potuto utilizzare la sua arma migliore con indigeni che parlavano una lingua diversa? Avrebbe dato la metà degli anni che gli restavano da vivere per parlare lingue di quella terra straniera. A lei spagnola e a Cuba si era fatto strada e aveva conquistato una posizione di potere grazie al fatto che sapeva pronunciare un discorso ornato di latinismi e impreziosito dalle sue molte conoscenze. Ormai aveva capito che né i cavalli né l'artiglieria o gli archibugi sarebbero bastati a dargli il dominio su quelle terre. Gli indigeni della regione, diversamente da quelli della spagnola e di Cuba, avevano sviluppato una raffinata civiltà. Cannoni e artiglieria leggera sono efficacissimi contro i barbari, ma in un contesto civilizzato la strategia migliore è sempre stringere alleanze, negoziare, promettere, convincere, tutte cose che si possono fare solo attraverso il dialogo. E lui ne era tagliato fuori. Nel nuovo mondo che aveva appena scoperto, gli si aprivano grandi occasioni, eppure lui si sentiva le mani legate. Non poteva avviare nessun negoziato, doveva trovare il modo di cavarsela con la lingua degli indigeni. Con altri mezzi, per esempio a gesti, non avrebbe mai potuto raggiungere i suoi scopi. Senza il dominio della lingua, anche le armi non sarebbero servite a niente. Era come utilizzare un archibugio come fosse un randello invece che per sparare. In una frazione di secondo il suo pensiero poteva creare nuove argomentazioni e nuove verità con cui modificare la realtà nel modo a lui più conveniente. Ma idee e argomentazioni dipendevano dalla solidità del suo discorrere. Era convinto che la fortuna aiuti i forti, ma nel suo caso nemmeno la forza e il coraggio, e sì che ne aveva d'avanzo, sarebbero serviti a molto. L'impresa poteva compersi solo con l'aiuto delle parole. Le parole erano i mattoni, il coraggio e il cemento. Senza le parole, senza la lingua, senza il discorso, non ci sarebbe stata alcuna impresa. Niente impresa, niente conquista. La notte che stava finendo aveva riempito di incubi la mente di Montezuma. L'imperatore aveva sognato bambini che camminavano nudi sulla neve che ricopriva la cima dei vulcani Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Marciavano contenti, pur sapendo che presto sarebbero stati sacrificati a Huitzilopochtli. Montezuma aveva visto quei bambini annegare in una pozza d'acqua, aveva visto i loro corpi galleggiare, poi aveva visto il dio dell'acqua camminare sui corpi dei bambini e grossi goccioloni staccarsi dal cielo e si era svegliato con gli occhi pieni di quell'acqua. Poi, senza riaddormentarsi, aveva immaginato che i crani di quei bambini sarebbero diventati le coppe da cui tutti loro avrebbero bevuto. Quelle fantasie le avevano spaventato, ma gli avevano anche dato piacere. Forse proprio questo l'aveva riempito d'orrore. Poi, all'improvviso, un forte vento aveva spalancato la porta della sua stanza e la luce del sole gli aveva inondato la faccia. Quel mattino, luce e vento avevano fatto colazione con i suoi occhi. L'aria agitava con violenza le tende, strappava le cose dal loro posto e le gettava a terra. Un cieco terrore si era impadronito di Montezuma e la sua mente aveva fabbricato a gran velocità l'immagine di una serie di castighi esemplari, spine di maguei che attraversavano la lingua e il pene. spine sanguinanti che parlavano della gran colpa di un imperatore che aveva guidato il suo popolo, gli Aztechi, a tradire e deformare i principi dell'antica religione tolteca. Gli Aztechi erano un popolo nomade che aveva smesso di essere tale per stabilirsi a Tula, mitica città fondata direttamente da Quetzalcoatl, il serpente piumato, e Montezuma era certo che l'arrivo degli spagnoli fosse collegato a quello di Quetzalcoatl, il dio cui presto avrebbe dovuto rendere conto delle sue malefatte. Il terrore del castigo divino aveva completamente paralizzato le sue grandi doti di guerriero, altrimenti gli stranieri sarebbero stati spazzati via in un sol giorno.